Io c'ho paura, Duccio. Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi. Cioè? Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada. Tu non lo leggi? Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piace, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto. Manca il Corriere dello Sport, posso leggere? Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio. You know I came just to smoke. Don't blow no Reggie my way. Matter of fact, stay out my way. I'ma just sit in this corner here. Roll up the dope on my dolo. Fresh, I got dressed at the corner. Remember when we was in polo? Rarely if ever again. This contemporary got me ready to spin. Fuck it, I promise my verses look crazy on paper. I write them in pen. Ain't no erasing mistakes. We just learn from them till we earn from them. That's how I started talking this water. That's when we started making the money. Six figures and not one was a father. And wonder how a nigga fuck up your daughter. Same way I fuck up my lungs. Giovedì 23 giugno 2022, bentornati e bentornate qui a Tabula Rasa. Abbiamo dovuto annullare quella che era la puntata che avevamo previsto, ma ci siamo comunque arrangiati in qualche modo con un'idea di puntata tutta nuova e che stiamo improvvisando, ma speriamo vi potrà piacere lo stesso, perché oggi parleremo comunque di fumetti, di bande, di poesie, di Enrichi, di Mennoniti, di amori e guerre civili. Saranno con noi questa sera o torneranno con noi Norman Gobbetti, che ci parlerà di Exit West, uscito per Einaudi. Poi c'è Marco Taddei e Simone Angelini che racconteranno Enrico, pubblicato per Coconino. Poi c'è Claudia Tarolo che parlerà di Miriam Toews e di Un complicato atto d'amore, uscito per Marcos e Marcos. Avremo anche un ricordo di Patrizia Cavalli fatto da Sara De Simone. E poi ci sarà un appuntamento al quale speriamo che tutte e tutti non mancheranno, che inizia il 30 giugno e finisce il 3 luglio a Roma, che è Bande Femme. E a tutte e a tutti auguriamo buon ascolto qui su Radio Onda Rossa e sempre con Tabula Rasa. Wake up and realize the moon is us. We've been controlling the wave. Fuck Google Maps, cause it ain't no directions. My nigga, this road ain't been paved. This joint ain't been rolled. I mean, this phrase ain't been coined. Ain't no coins in my way, man, what more can I say? You know I came just to smoke. Buonasera, buonasera a tutte e tutti. Bentornate e bentornate a Tabula Rasa. Oggi è giovedì 23 giugno 2022. E partiamo, diciamo, iniziamo la nostra trasmissione con un ricordo, perché purtroppo il 21 giugno 2022 ci ha lasciato Patrizia Cavalli, penso per tutti la più importante, grande poeta contemporanea italiana. Penso di non dire nulla, diciamo, di sconvolgente, lo è per noi che la amavamo, ma lo è ovviamente per tutta la cultura di questo paese e non solo. E a parlarci di Patrizia Cavalli abbiamo chiamato Sara De Simone, una critica letteraria che come noi ha amato tantissimo Patrizia Cavalli e che oltre ad amarla l'ha studiata, approfondita, e quindi con noi ci parlerà di Patrizia, di chi era, di chi è stata, di chi è tuttora grazie alle sue poesie e di che cosa ci ha lasciato. Ciao, ciao Sara e buonasera. Ciao, buonasera. Patrizia Cavalli è stata una grande poeta e una persona memorabile. Ci tengo a tenere insieme le due cose perché non è detto che vadano insieme, non sempre i grandi poeti, i grandi artisti sono anche delle persone memorabili, ma a volte più spesso di quanto pensiamo succede. Io ho avuto la fortuna di seguire Patrizia da una media distanza. L'ho iniziata a leggere quando ero giovanissima, poi ho conosciuto il mito, e quando si conosce un mito da giovani è sempre un po' pericoloso, no? Perché si è talmente amanti, talmente affezionati alla poesia che si ha paura di conoscere la persona. Invece poi, quando ho conosciuto anche la persona, sono rimasta meravigliata e ammirata dalla luminosità della sua intelligenza, dalla leggerezza della sua ironia e anche dalla ferocia della sua precisione nell'uso della lingua, nell'uso delle immagini, tutte cose che erano effettivamente nella sua poesia e che me l'avevano fatta amare. Non so se, come dici tu, Tiziana è per tutti la più grande poeta italiana, ci sono tanti gusti diversi nella poesia, sicuramente a Patrizia Cavalli a volte non si è perdonato la sua semplicità, qualcuno la chiama così, la sua popolarità. Io credo che la sua fosse una poesia, ed è una poesia niente affatto semplice, è una poesia in realtà costruita con grande rigore, con grandi illuminazioni, grandi trovate, anche appunto trovate ironiche, parole di tutti i giorni, parole comuni, ma con una lingua e un lavoro sulla musica, una musica interna, che probabilmente le veniva anche naturale, ma questo non significa che non sia arte. Lei aveva un pensiero musicale, aveva una capacità di tessere i versi con rime, allitterazioni, rime interne, le tanto vituperate rime che evidentemente non a tutti piacciono e che pure invece fanno parte della tradizione della nostra poesia, non solo dei grandi poeti, diciamo, a partire dal 300, ma anche del nostro 900, di cui Patrizia Cavalli faceva parte. Penso a poeti come Sandro Penna, penso, ecco, alla musicalità straordinaria di Amelia Rosselli, una poeta diversissima da Patrizia Cavalli, eppure si possono amare appunto poeti e poete molto diversi fra loro. Patrizia Cavalli è indubbiamente un punto di riferimento centrale per la poesia italiana, nella quotidianità del suo lessico, ma anche appunto in quella capacità cristallina, in quella parola piana, in quella parola quotidiana, che però teneva in sé grandi ragionamenti, no? Perché uso la parola ragionamenti? Perché stavo parlando della storia della poesia, e quando penso a Patrizia Cavalli mi viene in mente un verso di Dante, "Amor che nella mente mi ragiona", no? Lei era una che ragionava d'amore, l'amore è stato un tema centrale della sua poesia, l'amore e l'innamoramento, l'amore anche verso il mondo, l'amore verso le cose, verso le piccole cose, no? Anche questa espressione tanto vituperata, le piccole cose, sembra che evochi subito i buoni sentimenti, no? Invece non è così. Patrizia non aveva buoni sentimenti, aveva uno sguardo anche crudele sulla vita, e però appunto l'amava tantissimo. E mi piacerebbe, ecco, ricordare la sua totale assenza di retorica e però il suo amore per la vita, leggendo un suo testo che parla proprio della morte, altro grande tema insieme alla malattia della sua poesia, la malattia che di cui ha parlato da sempre, ben prima di essere poi ammalata davvero. Era un suo assillo, un suo chiodo fisso, come tante altre cose, come appunto l'amore, come la musica, no? L'assillo della musica, dei versi. Mi piace leggere questo testo perché è un testo che lei aveva scritto in Pigre Divinità e Pigra Sorte, per un'altra grande autrice italiana, un'altra grande scrittrice, poco ricordata ma davvero grande, che è Alice Ceresa, scrittrice svizzera italiana, con cui appunto Patrizia aveva un rapporto che si era anche incrociato con le strade del femminismo italiano. Per Alice Ceresa: quasi sempre, alla morte di qualcuno che c'era caro e che però di rado incontravamo, si pensa: ma perché non l'ho visto più spesso? Adesso non c'è più, e forse mai gli ho veramente detto quanto l'ammiravo. Com'è sciatto l'affetto che non sa farsi visibile in un gesto, come in quei sogni dove arriva un bene che è lì a due passi e non si sa godere, e poi che spreco in ogni onore postumo, in ogni lode o celebrazione. Perché chi è morto ormai, quale piacere, quale vantaggio ne potrebbe avere? È tutto vero, ma è un pensiero sciocco. Essere in vita infatti non è altro che il lusso di un ritardo, restare nel possibile sospesi tra il poco e il troppo, ma sempre fuori posto, sentendo che si può, che si potrebbe, in un fresco presente immaginato, pascolo ricco che viene tralasciato. Solo la morte, che in sé è inesistente, rende assoluto il tempo ormai concluso. A noi resta il pensiero di chi è assente, fermo pensiero, stupefatto, inerme, che l'immaginazione trova chiuso. Per questo si ricorre alla memoria. Quel che era mondo aperto si fa storia, e storia che si insedia nella mente, perché chi non c'è più sia finalmente sicura, intatta, eternità presente. Ecco, io penso che questa forse sia la poesia più giusta oggi per ricordare Patrizia Cavalli, no? Per questo verso che dice che spreco in ogni onore postumo, in ogni lode o celebrazione, chissà che cosa avrebbe pensato di tutte le nostre lodi di questi giorni, dei ricordi, delle polemiche su Facebook, si sarebbe fatta una grande risata o forse l'avrebbe detestato, era una che diceva le cose dritto per dritto. E però appunto poi dice un pensiero sciocco, perché in realtà la memoria serve a noi, e a noi oggi, noi che parliamo qui in radio, noi che scriviamo sui social, noi che la ricorderemo domani alla sala della Protomoteca in Campidoglio, serve la memoria e soprattutto serve pensare che Patrizia Cavalli è sicura, intatta, eternità presente, e resterà così. Grazie Sara, grazie di tutto, grazie del ricordo, grazie della lettura di questa poesia effettivamente splendida e giustissima per il momento, e ricordiamo quindi a tutti e a tutti quelli che ci stanno ascoltando che domani potrete salutare Patrizia Cavalli se volete al Campidoglio, alla sala della Protomoteca dalle 10 se non sbaglio fino alle 12.30, e ringraziamo ancora Sara De Simone e vi invitiamo a recuperare se non l'avete già fatto tutte le poesie, quindi tutte le pubblicazioni di Patrizia Cavalli. La maggior parte dei suoi libri sono stati pubblicati dalla storica e epica Serie Bianca di Einaudi, poi ha fatto anche altri libri con altri editori. Vi invito a conoscerla se non la conoscete, vi invito a rileggerla se ovviamente l'avete letta come noi. Grazie Sara, grazie ancora e buona serata. Grazie. That's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder, I wonder, wonder I do. I wonder about the tears and children's eyes, and I wonder about the soldier that dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder, and worry my friend. I wonder, I wonder, wonder don't you? Il viaggio non è sempre il viaggio di piacere, il viaggio può anche essere un viaggio di dolore, di speranza, può anche essere una porta che si apre in un punto dove non te l'aspetti, che ti fa arrivare in un altro punto che non ti aspetti. Ed è questa forse la grande trovata narrativa di Mohsin Hamid, che nel suo Exit West, pubblicato dai Naudi nel 2017, avevi ragione, sì, per l'appunto, adesso in versione tascabile a soli 10 euro per un totale di 150 pagine, non abbiamo dato tra l'altro i dati di... Ma li daremo dopo, cioè, li diamo alla fine, non, sì, non dimentichiamolo. Ecco, scrive questo romanzo, che è un romanzo che parla di una coppia, di Nadia e Said, che vive una relazione, comincia una relazione complessa, difficile, in un paese, si pensa, del Medio Oriente, e poi questo paese subisce un'evoluzione, una tremenda evoluzione, scatta la guerra, i miliziani conquistano la città, non sappiamo bene che paese sia, e loro, come tanti altri migranti, scoprono che ci sono delle porte, per cui tutto il romanzo, ogni capitolo del romanzo è costellato da una porta, cioè siamo nel paese del Medio Oriente e improvvisamente ci ritroviamo in Florida, ci ritroviamo in Canada, ci ritroviamo altrove, dove qualcuno spunta fuori da una porta e anche loro attraversano una porta. Ad averci aperto la porta della traduzione di questo libro è Norman Gobetti, che è stato veramente molto gentile, l'abbiamo contattato ieri sera e ci ha dato subito la sua disponibilità, e quindi diciamo grazie mille Norman di essere qui con noi, scusa, ho parlato lunghissimo, benvenuto. Ciao, grazie a voi di avermi invitato. Allora, Exit West è un romanzo un po' particolare, che ci ha avuto tanto l'altro quando è uscito anche un ottimo consenso, no? È un libro che è andato delle buonissime recensioni, però è un libro che ha più cose dentro. È vero che è un libro che è un modo, no, attraverso questo racconto, diciamo, distopico, racconta anche, no, il tema delle migrazioni, il tema dei rifugiati, ne ha parecchi di livelli di narrazione, di racconto e di tematiche, però è un libro, appunto, no, forse perché se non si è abituati a un certo tipo di letteratura, no, quella là, diciamo, della politica tanto quanto fantascienza, no, del romanzo distopico, così può in qualche modo può creare delle difficoltà al lettore. Ah, sì, mi sembra un raro esempio di romanzo politico interessante e innovativo, insomma, che di cui credo che si sentisse parecchio bisogno, soprattutto in questo momento, e forse adesso per noi italiani è diventato ancora più attuale di quando è uscito, insomma, ancora più necessario. Secondo me la cosa molto interessante di questo romanzo è che, mentre di solito nel concetto di migrazione si pensa sempre che c'è un prima, un durante e un dopo, e molto spesso il durante sembra che sia la descrizione della fase più tremenda del viaggio, no? Appunto l'affrontare il Mediterraneo come se soltanto quel tragitto in barcone fosse la parte più drammatica. In Exit West questa parte viene assolutamente troncata, perché i protagonisti, e a un certo punto anche Nadia e Said lo faranno, attraversano una porta e poi si ritrovano immediatamente nel paese dove sono migrati, e ci fanno capire che però è l'essere arrivati, come si dice nell'odio, è l'essere atterrati che farà male, perché nel paese dove arrivano non si troveranno bene. Norman, ti chiediamo un po' se ci fai, siccome tra l'altro paese che rimane anonimo, rimane tutto quanto anonimo, in alcuni casi si sa che è Londra, poi sì, però sì, insomma riusciamo a collocarlo, però siccome io e il mio socio siamo due confusionari, sì, riesci per favore, almeno per chi ci ascolta, un libro di due anni fa, a raccontarlo per fare un po' meglio di noi questo romanzo? Sì, non senza spoilerarlo troppo, diciamo, perché sì, poi il romanzo contiene anche delle sorprese, insomma, però sì, voi l'avete, mi sembra, introdotto molto bene, perché la storia di per sé potrebbe essere una storia che tante persone hanno vissuto negli ultimi anni e stanno ancora vivendo, appunto una storia di migrazione che però è raccontata, come giustamente dicevi tu, in un modo molto diverso da come queste storie vengono raccontate di solito, perché appunto l'attenzione soprattutto dei mass media, ma anche in realtà di alcuni narratori e soprattutto del nostro immaginario, si concentra molto su questo momento del viaggio che, come ha detto Hamid, mi sembra una cosa molto importante, è in qualche modo la cosa che rende i migranti diversi da noi, cioè l'esperienza che i migranti fanno e che chi non è migrante non fa. Ed è in realtà il fatto di concentrarsi così tanto sul viaggio un modo per far sentire il migrante diverso. Per cui da parte sua, questa è una cosa che lui ha, insomma, anche dichiarato diverse volte, il fatto di aver escogitato questo stratagemma delle porte è anche un modo per raccontare quello che nella vita del migrante, che poi è il 99% della vita del migrante, lo rende simile a chi migrante non è, quindi insomma lo rende essere umano come tutti. E quindi appunto in questo romanzo i trasferimenti di questi migranti forzati, insomma, che scappano da una guerra, sono non raccontati, perché appunto avvengono attraverso queste porte un po' appunto fantascientifiche, misteriose, che si aprono così all'improvviso e ti portano non sai bene dove. E mentre quello che viene raccontato sono poi gli aspetti della vita che tutti condividiamo, le storie, le relazioni sentimentali, la quotidianità, lo spaesamento, che appunto è uno spaesamento di migranti, ma sicuramente non è uno spaesamento solo dei migranti, insomma. E quindi attraverso queste porte loro passeranno appunto est to est, quindi spostandosi verso occidente da un posto all'altro, insomma, fino ad arrivare a una conclusione che appunto non racconto chiaramente, ma che cerca un po' di immaginare in modo diciamo non necessariamente apocalittico, non necessariamente distopico, un possibile futuro che in qualche modo va immaginato, insomma, a questo punto. Mi piace molto che tu abbia sottolineato anche il livello dell'umanità, perché secondo me è un libro che lascia fra le sue pagine anche delle tensioni tensioni vitalistiche, per cui dici devo lottare per la sopravvivenza, e poi a un certo punto arrivano dei momenti in cui dici sì, però l'essere umano, il vivere, è anche qualcosa in più. Ad esempio quando loro riescono ad avere il tempo per lavarsi, no? Dove il lavarsi non è soltanto pulirsi, ma è anche un attimo godere del proprio corpo. Oppure quando a un certo punto Nadia trova nuovamente dell'erba e si va a fare una canna con Said, così come fumavano prima di partire, e quel momento lei lo vive quasi come un momento di grande esaltazione, di grande vicinanza. Fumare insieme diventa, finalmente possiamo un attimo staccarci dalla mera sopravvivenza. Io credo che in questo momento sia veramente politicamente essenziale fare questa operazione, cioè capire che il migrante non è altro da noi, non è il diverso che viene a distruggere il mondo in cui noi viviamo, ma il nostro mondo è il mondo delle migrazioni, e il mondo delle migrazioni è semplicemente la normalità di tutti. E per cui è quello che va raccontata, mi sembra, in questo momento è la normalità, non è la tragedia, non è la drammaticità. La tragedia e la drammaticità ce la mette davanti la televisione tutti i giorni, ma mi sembra che questo peggiori soltanto la paura della gente, insomma, mentre poi la vita del migrante è fatta al 99% degli stessi ingredienti di questa, la vita di chiunque altro. Guarda, posso dire, allora, tra le varie cose che avevo letto, no? Però io all'epoca non la colsi, quindi oggi qui mi sono andato a rileggere un po' di robe. C'era una critica a questo romanzo, all'autore del romanzo, che non si è preso la responsabilità poi alla fine di contestualizzare invece alcune cose, e quindi no, ci sta il rischio che il non localizzare precisamente la provenienza, no, dei due protagonisti rischia un po' di fare quel polpettone, no, e di rendere un monolite il mondo arabo, perché comunque loro si capisce che arrivano dal sud del mondo. Sì, dal sud. In realtà c'è una ragione abbastanza precisa per questo che Hamid ha spiegato, cioè lui in realtà questa città di cui lui non fa il nome è Lahore, cioè è la città del Pakistan di cui Hamid è originario e dove tra l'altro è tornato a vivere già da qualche anno, e lui, quando appunto in mia presenza una volta una persona gli ha fatto questa domanda, gli ha detto appunto perché questa città è senza nome, lui ha detto perché per me, cioè lui ha dato una duplice risposta, diciamo, la prima è stata per me sarebbe stato troppo doloroso immaginare che davvero fosse, cioè per me è Lahore, ma scrivere che a Lahore potrebbe succedere questo per me è troppo doloroso, e quindi non mi sono sentito di farla. E la seconda cosa è il fatto di dire non si tratta tanto del fatto che sono siriani o che sono pakistani o che sono yemeniti o quello che è, si tratta che sono esseri umani, e quindi per me queste due persone sono semplicemente degli esseri umani. Questa cosa ora sta capitando in Siria, potrebbe capitare chissà in futuro in Pakistan, ma potrebbe capitare in Europa come è capitato in Jugoslavia neanche così tanto tempo fa, quindi insomma noi sentiamo queste cose come assolutamente strane e lontane, ma è capitato da noi, potrebbe capitare in futuro da noi, ed è il mondo, insomma, non è un paese. Tra l'altro, diciamo, Hamid, in un libro che tu avevi precedentemente tradotto, si è già soffermato effettivamente sul Lahore, nelle civiltà del disagio, dispacci da Lahore, New York e Londra, quindi dove focalizza e contestualizza di più la situazione in queste tre città. Poi ci sono parecchie cose, c'è la scoperta dell'identità di genere di uno dei due protagonisti, ci sono parecchie cose che ora non staremo a raccontare per non dare, appunto, come dicevamo, per non spoilerare troppo questo romanzo, perché ha tante cose dentro. Stavamo provando un po' a dare un sì, inquadrarlo. Ha tante cose in un numero di pagine molto limitato, sì, esatto. Giustamente avrete detto che sono poi 150 pagine, ma sono 150 pagine veramente molto ricche, insomma. Sì, tra l'altro in un formato anche piccolo, c'è il classico formato in Audi, per dire che è un libro che si legge, io l'ho letto in un paio di giorni, in un paio di pomeriggi, si legge molto veloce, ha una scrittura molto scorrevole. Questa, scusa se ti interrompo, è anche una cosa che lui fa volontariamente, nel senso che lui la scelta di fare dei libri brevi, lui l'ha giustificata dicendo: in un mondo in cui la nostra esperienza è sempre più parcellizzata, per cui noi facciamo ogni cosa per 30 secondi, dopo 30 secondi passiamo un'altra cosa, e siamo continuamente sballottati da una cosa all'altra, lui diceva: io voglio leggere un libro, voglio scrivere libri che si possono iniziare e finire, volendo anche in un'unica giornata, proprio per poter, come dire, offrire almeno potenzialmente l'opportunità di dire: faccio questa esperienza in modo globale, continuativo e non frammentario, insomma. Io lo abbraccerei, perché faccio parte di quelli che cerco di non leggere i libri sopra i 400 pagine, ma proprio è una questione di tempo, con poco tempo un libro di 400 certo. pagine ve ne occupa il doppio di uno di 200, è semplicemente, semplicemente così. Ti ringraziamo nel frattempo. Guarda Norman, mentre sappiamo che tu ovviamente come traduttore non impiegherai una giornata a tradurre i libri, ti vorremmo chiedere un consiglio che dai a chi ci sta ascoltando in questo momento, un bel libro che hai letto recentemente. Oh mamma, queste domande mi mettono sempre in grande difficoltà, anche perché in realtà io, quando diciamo non leggo delle cose per lavoro, tendo a leggere più cazzo classici, quindi insomma libri del passato. Ma siccome la nostra è una trasmissione, vi posso segnalare un libro in realtà che è un libro di un altro autore pakistano che ho tradotto da poco, insomma in realtà non è ancora uscito, ma uscirà da ADD nei prossimi mesi, e l'autore si chiama Aslam Nadim Aslam. E il titolo in realtà non è ancora definitivo, ma è in uscita, quindi questo, segnatevi questo nome, Nadim Aslam, che è un altro autore pakistano. Ok, va bene, lo aspetteremo allora, sì. Per i tipi di ADD lo aspettiamo e facci sapere, soprattutto così ne riparliamo. Va bene. Grazie, ciao. Grazie, un abbraccio, ciao, ciao e buon proseguimento. Ciao. Excuse me, can I talk to you while you're jumping? Yes. What's your name? Mary Jane Stebbins. I understand you're the champion around here. How'd you do it, and where did you do it, and how many times? Tell me all about it. I did it in my neighbor's backyard, and I did 6,201 times. 6,201 times? Yes. Without stopping? Yes. How long did it take you, Mary Jane? Almost an hour. And why did you stop? You were completely tired, or what? Oh, my toe goes stick me out of grease. Di moi ou excité que en moi capette cadence les ou ga allongé en moi jusqu'à demain moi v'lais sentir pour à certain c'est à nous qu'elle a demain matin. Ouais, t'es mini quand j'mets le turbo, j'adore quand tu m'dis Leroy c'est toi l'plus beau. Ouais, t'es celui que j'préfère, celui qui m'fait grimper au rideau à n'importe quelle heure et dans n'importe quel studio. Tout le monde sait que tu connais toutes les œuvres, donc on t'aime trop. On sait tous avec toi, on passe à des moments très chauds. À chaque fois que tu t'en sors, n'hésite pas qu'on pose mon numéro. Et toi-même tu sais que le doigt tout ce sera très chaud. Angela, que tu as. E cominciamo 20 e 20 con la nostra prima ospite. Diamo il benvenuto a Claudia Tarolo, qui a Tabula Rasa. Ciao. Pronto? Pronto, eccoci qui. Allora, come dicevo appunto, che sei stata traduttrice di Miriam Toews, che so benissimo che è un'autrice, l'autrice canadese ti piace moltissimo. Noi dopo manderemo uno stralcio dell'incontro che c'è stato qui a Roma durante il Festival Inquiete, proprio per andare a sentire un po' le parole di questa autrice, che noi come redazione di Tabula Rasa siamo tutti abbastanza d'accordo, ci piace molto. Bene. Allora, innanzitutto raccontiamo che autrice è, perché è un'autrice molto particolare, a mio avviso va a raccontare delle storie. Lei, allora, innanzitutto lei viene da un mondo molto, molto particolare, che è quello della comunità maronita canadese. Sì, infatti lei ha questa storia difficile in un certo senso, perché nasce in una comunità isolata e integralista e molto molto intollerante. I menoniti sono un po' meno conosciuti degli anabattisti o degli amish, ma più o meno si tratta della stessa cosa, cioè un'ortodossia cristiana che rifiuta la modernità, rifiuta qualsiasi distrazione dalla contemplazione del sacro, persino la musica che non sia una musica religiosa, qualsiasi testo di letteratura, non parliamo del cinema, sono assolutamente vietati, no? E quindi chiunque abbia anche solo una minima curiosità viene facilmente scomunicato e addirittura ridotto proprio a una specie di paria. E Miriam in questa situazione patisce molto e a 18 anni se ne va e inizia la sua ricerca, no, di una strada diversa, e diventa una scrittrice. Poi è interessante che ha fatto anche l'attrice a un certo punto, perché sì, questo regista messicano Reigadas voleva fare proprio un film sui mennoniti, ha incontrato lei, che inizialmente doveva fare solo da tramite, da interprete, e invece poi lui, come tutti noi, ha pensato che lei potesse fare qualsiasi cosa e le ha dato addirittura il ruolo di protagonista in questo suo film, che si chiama Luce Silenziosa. La cosa particolare di questa autrice è che, pur raccontando spesso delle storie anche molto forti, le protagoniste ovviamente, tutto è l'universo femminile, il suo universo, quello di riferimento, però riesce a mantenere sempre, forse escluso in Donne che parlano, però perché è un libro un po' particolare rispetto agli altri, riesce a mantenere comunque una sottile ironia pagina dopo pagina. Sì, questa è veramente una sua caratteristica, nonostante lei affronti dei temi che a volte sono veramente molto molto dolorosi, perché in uno dei suoi romanzi di maggior successo, che è I miei piccoli dispiaceri, racconta, insomma, anche se in modo romanzato, il suicidio di sua sorella, insomma, quindi una cosa veramente che è stata per lei drammatica, tremenda, ma lei riesce sempre a inserire questa sorta di umorismo, no? Che è un umorismo nero e che però è poi la cosa che riconduce alla vita, no? Cioè come se ci fosse comunque, anche di fronte alle esperienze più dure, qualcosa che ci chiama, il cibo, l'amore, l'affetto per i nostri figli, insomma, e che ci fa alla fine sorridere, no? Nonostante le cose magari terribili che ci sono capitate. E lei, questo proprio è la sua arte, riuscire a trasmettere questo aspetto, che secondo me è molto vero nei libri. Lei poi, tra l'altro, lo scorso anno in Italia è uscito Donne che parlano, che è un libro molto, come dicevo, molto particolare, perché va a raccontare una storia che non è accaduta nella sua comunità, però è una storia di violenza, una storia accaduta in una colonia mennonita, però in Bolivia, tra il 2005 e il 2009, dove fondamentalmente le donne di questa comunità venivano a loro insaputa drogate, per poi essere, cioè narcotizzate, per poi essere stuprate nel sonno. Ed è un libro molto forte, un libro forse appunto è quello che è quello diverso dagli altri che ha scritto, però anche questo è un libro che poi va a raccontare una storia comunque di libertone, di liberazione, perché poi queste donne hanno avuto sono riuscite a ribellarsi, a denunciare quello che a un certo punto hanno realizzato che accadesse sui loro corpi. Sì, e diciamo per ora è il suo libro più importante ed è secondo me un libro meraviglioso, perché parte da un fatto vero, ma poi non si sofferma tanto, no, sull'aspetto proprio della violenza in sé, no, che potrebbe anche essere in qualche modo un po' così voyeuristico, un po' torbido, ma proprio va a vedere la cosa più importante, cioè che cosa bisogna fare, che cosa si può fare per reagire alla violenza. E quindi racconta, cioè immagina che alcune di queste donne che sono proprio state stuprate nel sonno si trovino una notte in un fienile per decidere che cosa fare e che chiamino un uomo a tenere traccia di questa loro discussione. E per me tutto questo è molto bello, cioè sia il fatto che la sua attenzione stia proprio su cosa facciamo adesso, cioè queste cose ci sono, queste terribili violenze esistono, troviamo il modo di evitarle, di evitare che si ripetano, e anche il fatto che appunto non è una è sicuramente un romanzo molto femminista, però c'è un uomo che si dedica proprio ad ascoltare quello che loro dicono e a portare memoria di tutto questo, anche perché queste donne realmente erano addirittura analfabete, perché in alcune delle comunità mennonite più estreme, più estremiste, le donne vengono proprio trattate come delle sorte di queste sorte di animali da soma, a cui non viene nemmeno concesso il beneficio dell'alfabetizzazione. È una frase bellissima che dice proprio quest'uomo, questo August Epp, alla fine del libro, e io da queste donne ho imparato che la fede è azione, che la coscienza è resistenza e che il tempo stringe. Secondo me è un messaggio universale veramente bello per tutti. Senti, ciao, buonasera, sono Giulia. Ti volevo chiedere invece una cosa appunto sul tuo lavoro di traduzione, cioè com'è stato tradurre un'autrice con questo background, immagino completamente diverso dal tuo, di vita, e se secondo te è importante che una scrittura del genere, una scrittrice del genere venga tradotta da una donna, o se invece tu credi che sia possibile una traduzione, diciamo, pari sex. Allora, per varie ragioni i libri che ne abbiamo pubblicato, che ormai abbiamo pubblicato tutti i libri di Miriam Tales, due sono stati tradotti da un uomo, che è Daniele Benati, che è un grandissimo scrittore, e secondo me lui ha dimostrato che no, non è necessario che si tratti di una donna, basta che sia qualcuno che abbia l'intelligenza di cogliere queste sfumature che con cui lei padroneggia proprio non tanto la lingua ma soprattutto la narrazione, no? Cioè questa sua capacità di attraversare i registri. E rispetto alla mia esperienza personale, guarda, devo dire che io ho tradotto molti autori, ma forse è stata una delle situazioni in cui mi sono trovata con una scrittura che mi era più congeniale. Soprattutto l'ultimo libro che ho tradotto, che è La mia estate fortunata, che è stato il primo libro che lei ha scritto, e dove per me tradurlo è stata una festa, nel senso che proprio non avevo la minima difficoltà, cioè come se ci fosse proprio una lingua che mi poteva appartenere. È vero che io e Miriam abbiamo avuto storie completamente diverse, provenienze completamente diverse, però siamo coetanee e ci vogliamo molto bene e secondo me abbiamo tante cose in comune, pur con appunto origini e storie diversissime. Quindi tu hai potuto anche confrontarti direttamente con lei sulla traduzione, cioè un lavoro che hai potuto fare anche se sì, non, non, Devo dire che su questo ultimo libro non ho avuto tantissimi dubbi, sì, qualcosa sì, e glieli ho sottoposti, ma la cosa più importante è che ormai ci conosciamo bene e siamo, insomma, c'è una affinità tra noi, così abbiamo avuto delle vicende di vita comunque un po' avventurose, un po' di grandi cambiamenti, siamo addirittura tutte e due delle giovani nonne e quindi questo probabilmente non c'entra, però mi piace pensare che ci sia anche questo aspetto, così tutte e due siamo state così giovani, un po' scavezzacollo, abbiamo combinato parecchi guai in tutti i campi e poi però abbiamo trovato insomma la nostra strada, e questo secondo me in un libro come La mia estate fortunata, dove si parla proprio di come a 20 anni si può essere estremamente confusi, io mi sono trovata benissimo proprio a casa mia. Quindi Marco Taddei e Simone Angelini. Ciao, ciao. Ci sentite? Amici. Ah, vedi, si sente bene. Siete col viva voce? Sì, sì, sotto la pioggia, bellissimo. Se dovesse succedere qualcosa, non so, vi facciamo sapere. Va bene, fateci sapere. Allora, siamo qui per parlare del vostro ultimo fumetto che si chiama Enrico. E, Marco Taddei, scrittore, Simone Angelini, disegnatore dei fumetti scritti anche scritti da Marco Taddei, pubblicano Anubi nel 2015 con Gerzetic, poi nel 2016 con Panini pubblicano Malloy e Storie brevi e senza pietà, anche se la prima edizione era del 2015, poi nel 2018 con Coconino pubblicano Horus, che è lo spin-off di Anubi, e ristampano Anubi e pubblicano Quattro vecchi di merda. Ho detto tutto bene, spero. E oggi parliamo di Enrico, che è un altro spin-off di Anubi, è un prequel praticamente. E già nel volume Anubi c'era Enrico, c'era questo personaggio, noi lo incontriamo più o meno, lo scopriamo che è già adulto, è un tossicodipendente grave, più grave del suo amico Anubi. Sul libro Enrico lo incontriamo già dalla sua infanzia, quindi voi raccontate tutta la vita di questo personaggio, esatto, che è una situazione abbastanza complicata. Mi chiedevo come mai avete scelto proprio questo personaggio, che cos'è che vi interessava raccontare? Guarda, dopo Anubi, che parla appunto di questa divinità che se la spassa tra droga e alcol, abbiamo deciso di scegliere l'uomo, l'essere umano, Enrico, proprio per sottolineare la fragilità di un personaggio che ha le difficoltà nella vita. Uno pensa a un tossicodipendente, si immagina solamente appunto un tossico, nient'altro, che un rifiuto della società, una roba del genere. Invece in realtà noi abbiamo voluto dare una dimensione umana a questo personaggio, appunto soffermandoci sull'infanzia, sull'incontro con vari tipi di esperienza che possono essere normali per qualsiasi persona. E poi l'incontro con Anubi, che coincide con una specie di rivoluzione personale, e poi la condivisione con Anubi, con questo personaggio appunto semidivino o semiumano, dell'esperienza della tossicodipendenza, che lo cambierà in maniera completa, radicale, lo sostituirà, come direbbe Burroughs. Allora, entriamo a piombo su quello che è poi il tema, no? Non è di consuetudine trovare l'eroina nel fumetto, ma proprio nel fumetto, soprattutto nel fumetto italiano, spesso e volentieri l'approccio alle sostanze, se c'è in maniera blanda, è creativo. Sì, esatto, e mentre qui invece si parla della tossicodipendenza di eroina si parla molto poco, nonostante sia ancora una delle sostanze che persiste e fanno e continuano a uccidere, né più né meno. E voi avete fatto anche una scelta abbastanza coraggiosa nel buttarvi nel raccontare un eroinomane. Sì. Da dove nasce appunto lo spunto del perché? No, perché mi ha molto incuriosito appunto la scelta del parlare, del centrare la sostanza eroina nel vostro racconto. Beh, è un'esperienza che sicuramente dipende dagli ambienti, le situazioni che abbiamo, come dire, davanti agli occhi ogni giorno. Noi viviamo in provincia, veniamo da una regione comunque un po' sfigata, che è l'Abruzzo, viviamo sull'Adriatico, molti personaggi che sono in Anubi, anzi tutti i personaggi di Anubi, anche più paradossali, sono tutti fotocopiati dalla realtà. E abbiamo proprio deciso di non cambiare nulla di quello che vedevamo davanti ai nostri occhi. Sì, poi considera che siamo entrambi, cioè siamo coetanei, quindi tipo se io un ricordo da bambino era andare a giocare nei campetti di calcio di fronte casa con un prato con l'erba alta, ma se la palla andava a finire in questo prato era scontato trovarci o siringhe o tossici nascosti a farsi la dose, cioè ripensandoci era quasi normale incappare in questa situazione. E poi crescendo comunque anche tramite amici e esperienze dirette, insomma, si viene a contatto con questa realtà. Io personalmente non ho mai fatto uso di non so Marco, ma questa cosa me la sono risparmiata della vita, quindi è semplicemente una cosa di riflesso. Effettivamente penso che per chi è nato in provincia c'è una sorta di sentimento simile, insomma, se sei nato in provincia, se sei cresciuto in una provincia dove comunque la vita può essere più monotona, insomma è più facile incappare in ma no, non assolutamente sì. Io non sono proprio d'accordo. Giusto per fare un piccolo inciso a quello che ha detto Simone, è vero, cioè l'eroina, insomma, le sostanze, i tossici per noi erano, cioè, normalissimi. Cioè io non mi sono mai posto il problema di distinguere da gente normale ai tossicodipendenti. Nella mia città c'è sempre stato un grande problema, adesso c'è lo stesso problema, è un po' più nascosto. E anche da piccolo, come tutti quanti immagino, anch'io ho avuto l'esperienza di dover stare attento alle siringhe per terra, insomma, cioè una cosa. C'erano anche i famosi alberi con le siringhe conficcate che venivano riutilizzate, no? Lasciate lì per l'amico che sarebbe passato dopo. C'erano cose veramente normali da vedere in giro. Esatto, cioè, un ambito un po' gore, cioè, veramente duro. No, comunque però è normale come. A noi ci ha lasciato. No, scusa, vai. Dimmi. No, nel senso, è una normalità. No, poi ci ha lasciato un velo di naturalezza, insomma. Noi infatti raccontiamo questo mondo qua. Il nostro non è un fumetto di denuncia contro la droga, è un fumetto di denuncia contro, cioè di denuncia contro, in realtà è un fumetto che vuole l'essere umano al centro, cioè con tutta quanta la sua piccola disperazione, che comunque in realtà crea un mondo. Anubi alla fine è diventato l'atomo di un universo che si sta espandendo sempre di più. Ed è un universo fatto di sconfitte, di amarezza, di dolore, ma queste piccole realtà, cioè queste piccole dimensioni cittadine, provinciali, rendono tutto quanto più intimo, cioè più umano. Enrico è proprio la bandiera di questo sentimento di umanità piccola e comunque che ha bisogno di una voce. No, pensavo al fatto che poi le scene che vivevate voi nella provincia, sono le scene, stesse scene che si vivevano nei quartieri di Roma, di qualsiasi altra metropoli. L'eroina comunque è una delle sostanze che fa parte di questa società. Forse è cambiato l'approccio verso l'eroina, perché non è più la sostanza principe della narrazione, anche semplicemente giornalistica. Fondamentalmente ormai c'è anche una miriade di sostanze diverse, però quello che è certo è che l'eroina continua comunque ad uccidere. Però secondo me è interessante anche capire un po', loro cercano anche di raccontare delle motivazioni sul perché comunque c'è questa disperazione. Ad esempio all'inizio del libro si indaga un po' sulla famiglia di questo personaggio e si vede un padre alcolizzato, una madre malata a letto e Taddei scrive con una voce fuori campo. Ci interrompiamo, ma sì, siamo stati infortunati da un tossico. State esatto. Scherzando? No, perché siamo in un vicolo, sì, sotto la fronte. Scusami. Scusate voi, siete al sicuro adesso? Sì, figurati. Okay. Con naturalezza, penso. Bene, con Camparino. Ero io. Eri tu. Eroino. No, volevo citare questo pezzettino del libro che dice: da mio padre ho imparato a dire le bugie, da mia madre lo sguardo della sofferenza. C'è in qualche modo un voler raccontare un po' un'origine di un problema, forse all'interno di questo libro. Come avete lavorato su questo, sia a livello, diciamo, di scrittura che a livello grafico? Perché ho visto che siete stati anche, ho letto che siete stati paragonati anche ad Andrea Pazienza, come lui ha raccontato un certo mondo, però io trovo che lui l'abbia fatto in maniera molto diversa, molto più barocca, diciamo, più sì, piena. Certo. Sì, guarda, per quanto riguarda la prima parte, c'è sempre una motivazione nelle cose. Indagare proprio le motivazioni di un essere umano che decide di avventurarsi in qualcosa che sa che è distruttivo, penso che sia la cosa più interessante del mondo, più affascinante del mondo. E allo stesso tempo, per quanto riguarda il livello grafico, lascio un attimo la voce a Simone. Sì. Beh, graficamente con Enrico si segue sempre il filone di Anubi e Horus, quindi una scelta drastica della griglia, asciugare completamente la parte grafica, quindi limitarsi a non dico schematizzare, ma svuotare gli ambienti, creare quella situazione di in Enrico, anche forse più rispetto che in Horus, siamo tornati a raccontare tramite anche dei grandi vuoti, dei grandi silenzi in alcuni punti, appunto perché è un'atmosfera e far entrare ancora più nella psicologia del personaggio che si andava costruendo pian piano durante il racconto. Che poi, insomma, abbiamo parlato molto dell'eroina, ma non è un racconto sull'eroina, ma ci verrebbe vederlo più come un racconto di formazione di un individuo e anche di una grande storia di amicizia, in fin dei conti, fra Anubi e Horus. Sì, tra Enrico e Anubi, troppi nomi in mezzo. No, infatti sono d'accordo, una cosa che io ho apprezzato è proprio questo, no? Che non ci ho visto un cercare di raccontare quelle che sono state le motivazioni che hanno portato il protagonista ad avvicinarsi all'eroina, è stato quasi un processo naturale di curiosità e poi no, nel senso, perché poi la storia invece è della relazione tra loro due, una relazione che poi a un certo punto va anche a sfilacciarsi, quella tra appunto da Enrico e Anubi, però fondamentalmente è un'amicizia che si salda pagina dopo pagina, un po' come ovviamente poi quando si parla di queste cose uno è costretto a fare, no? Ah, perché sembrano i protagonisti di Amore Tossico, no, evitiamoci questa roba, sembrano due amici di provincia che si ritrovano a condividere delle esperienze simili e le condividono passo dopo passo. È l'esperienza della vita, sì, esatto. Ok, io mi chiedevo se vi andava di raccontarci come lavorate. Adesso siete tutte e due a Pescara, giusto? Quindi siete anche più vicini, ma qual è il vostro metodo di lavoro? Guarda, lo riassumiamo spesso, questa domanda ci viene fatta in continuazione effettivamente, e ormai usiamo solamente due parole, ping pong. Ok, mi sembra che come immagine esatto, funzioni molto bene. È la cosa, il metodo più veloce che abbiamo, siamo talmente affiatati che ormai questo metodo è proprio naturalissimo per noi è il metodo migliore, poi tra l'altro uno batte, l'altro risponde, l'altro controbatte e andiamo avanti così e alla fine portiamo a casa la partita. Ogni anno un fumetto nuovo, tematiche differenti, ambientazioni differenti, sta andando bene insomma. Da quanto tempo fate i fumetti? 2014-2013, una cosa del genere. Insomma, un bel po' di anni che fate ping pong. Esatto, una bella partita lunga, record. E sì, il primo fumetto è stato Storie brevi senza pietà, che sarà il 2013, quindi probabilmente sì, da quella data lì. Io mi chiedevo, visto che i vostri fumetti restano sempre molto underground rispetto a quello che si trova in giro, perché comunque appunto dicevamo raccontano determinate tematiche che non è facile trovare. E appunto come la dipendenza, come la provincia raccontata in un certo modo, non in un modo sempre solo romantico, di una realtà sia interna che esterna, complicata. E mi chiedevo se avevate delle ispirazioni, oltre che appunto, come avete già detto, alla realtà, a quello che vi circonda, se avevate qualche scrittore o qualcosa che vi ha ispirato per raccontare poi tutto questo. Ma guarda, il nostro stile è contro le smancerie e quindi puoi immaginare che grandissima resta di scrittori possono averci ispirato, insomma. Noi siamo assolutamente diretti, cioè ci piace immaginarci almeno così, e ci piace appunto non usare le vie di mezzo, quindi evitiamo proprio tutte queste piccole smancerie che potrebbero essere degli ammiccamenti magari al lettore. Tutto questo ci viene da un background anche letterario, ma anche di musica, di altri fumetti ovviamente, grandissimo. Io per quanto riguarda la scrittura mi sono ispirato moltissimo, cioè mi piace moltissimo la narrativa italiana di ogni genere, magari anche cervellotica tipo Giorgio Manganelli, però ovviamente William Burroughs poi c'ha un bel ruolo, quindi esce fuori un bel mix, esce fuori. Tu Simo? No, vabbè, a parte i riferimenti che sono veramente tantissimi, una cosa che È capitata oggi ad esempio a Lucca, è ospite Jason, che è un autore norvegese che pubblica fumetti per Fantagraphics, che è stato in realtà adesso tradotto da 001 in italiano, che sta ripubblicando i suoi fumetti. È successo che diversi anni fa c'è stata una sua mostra a Bologna, il Bilbul Bull, e la mostra con allestimento molto bello, erano ambienti ricostruiti completamente sparati, con bianco pieno, tutto l'arredamento era sia in tre dimensioni che bidimensionale sulla parete, disegnato con un tratto nero molto grezzo. E questo, ripensandoci, cosa che ho avuto l'occasione anche oggi di dire a Jason, grazie all'aiuto di amici che traducevano in inglese, ripensandoci quel vuoto che si andava a creare in quella mostra, in quegli spazi bianchi, in quelle cose lì, comunque poi sono riusciti nel mondo di Anubi. Ovviamente a Jason non è fregato un cavolo di sta cosa, me la potevo anche risparmiare a dire, però volendo scavare su un particolare, sì, relativamente grafico di quello che è Anubi, devo riconoscere che ha avuto una certa influenza quella mostra lì, che poi ho scoperto che Jason, tra l'altro, mi ha detto, ma in realtà è stato lui, mi ha indicato il ragazzo, l'amico Trabacchini, che mi stava traducendo, ma in realtà è lui che ha fatto l'allestimento. Quindi, concludendo, Trabacchini ha ispirato Anubi e non Jason. Esatto. Trabacchini ispira le vite di tutti noi. io direi che concluderei facendovi la domanda che facciamo un po' a tutti, che è: avete un fumetto da consigliarci? Certo, allora guarda, pensandoci al volo, a proposito di cattivi maestri, è uscito Gio Galaxy di Massimo Mattioli adesso per Coconino, lo straconsiglio, chiunque passa qua a Lucca oppure sta a casa e vuole andare a comprare un fumetto in libreria può prendersi il volume completo delle avventure di Gio Galaxy, bellissimo, veramente. Sì, a Mattioli. No, poi a Mattioli abbiamo già deciso di dedicare delle prossime puntate, l'andremo a dedicare a Mattioli, perché ci stavamo preparando proprio per questo, perché non si può non regalare una bella fetta di una, se non una trasmissione intera, forse a uno degli autori, insieme a Pazienza. Non sono tantissimi gli autori italiani così importanti, così che hanno avuto questo ruolo nel mondo del fumetto, veramente nel mondo del fumetto, anche fuori dai nostri confini. Sono davvero solo, non lo so, non sono così esperto, però Mattioli è veramente uno dei più grandi. Beh, sicuramente. Guarda, io per rimanere sempre in quegli anni lì, nello stesso gruppo, visto che è il nostro compagno adesso lucchese, ci stiamo condividendo cene, grandi chiacchierate, direi Scozzeri, che ha ripubblicato adesso una raccolta di racconti con Coconino. No. Intitolato Lassù No, e in particolare, se vi capita di leggere, soffermatevi su Il perché viaggio nel tempo. Sono storie brevissime di una pagina dove lui spiega varie motivazioni perché prendere una macchina del tempo e tornare indietro, come ad esempio non voler nascere come una persona invidiosa, quindi tornare indietro nel tempo e dire al padre che sta mettendo incinta la madre: togli quella nerchia di lì. Bellissimo, assolutamente perfetto. E comunque niente, non c'è niente da fare, sono passati ormai quasi 40 anni da Frigidaire, eppure quella cricca lì ancora continuano a segnare generazione e generazione di autori e autrici di fumetti. Grazie. Tornato Bande Femme, ricomincia oggi il Festival Femminista di Fumetto e Illustrazione organizzato dalla libreria Tuba. Siamo alla nona edizione e siamo emozionate. Bande Femme quest'anno torna in presenza su Via Pesaro, a fianco proprio alla libreria Tuba, con una serie di incontri, dibattiti, live painting, presentazioni di fumetti e tavole rotonde, come sempre gratuite dal 1 luglio al 3 luglio, tutti i pomeriggi circa dalle 16. Il 30 giugno invece... Allora, il 30 giugno apre, è il primo appuntamento del Festival in Presenza e sarà la serata dell'inaugurazione delle mostre, un vernissage di 16 mostre che diciamo riempiranno vari luoghi nel quartiere tra Pigneto e Tor Pignattara. 16 artiste che saranno tutte in presenza ad accogliere le persone che andranno a vedere le mostre, quindi con cui sarà possibile anche parlare e che sarà possibile conoscerle. Noi vi aspettiamo, trovate il programma sul sito di Tuba, sui social e sul sito di Bande Femme, www.bandefemme.it, più facile libreria Tuba.it. Però... Aspetta un attimo, visto che a noi ci piace fare ancora più cose oggi, in realtà abbiamo un piccolo appuntamento che aspettando Bande Femme, un importantissimo focus sulle fanzine, le autoproduzioni. Sì, praticamente è un pomeriggio, diciamo una serata di appuntamenti online a partire dalle 19 fino più o meno alle 23. Quindi presentiamo una serie di autoproduzioni, possiamo dire tendenzialmente di fanzine, proprio perché ci piace anche andare un po' a valorizzare le produzioni indipendenti, le fanzine che comunque per tanti e tante di noi sono uno strumento di comunicazione e di narrazione molto importante. E in questi incontri parleremo di stigma psichiatrico e psichiatrizzazione, parleremo anche di archivi di fanzine queer, parleremo di progetti di fanzine che attraversano un po' varie città italiane e in conclusione siamo molto molto contente di essere riuscita ad organizzare questo incontro con Rasha Zab e Mainour El Masri, due compagne egiziane che a partire appunto da un fumetto che ricostruisce la vicenda di Patrick Zaki e in generale la situazione della repressione in Egitto, queste due compagne che molto spesso abbiamo sentito e di cui abbiamo parlato dai microfoni proprio di Radio Onda Rossa, ci raccontano un po' non solo della vicenda giudiziaria che coinvolge e che colpisce Rasha, ci parlano anche dello sciopero della fame di Hala e insomma un po' della situazione nelle carceri egiziane conversando insieme a una nostra compagna. Quindi questo un po' è sicuramente un programma molto fitto, noi invitiamo chi ci ascolta a venirci a trovare, innanzitutto a seguirci il 23 sera con Aspettando Bande Femme e a venirci a trovare, a andare a vedere le mostre che comunque verranno inaugurate il 30 ma rimarranno aperte per tutti i giorni del festival e poi andarvi un po' a studiare il programma. Sappiamo che è fine settimana, sappiamo che è estate, però insomma dal pomeriggio in poi ci trovate anche post mare per insomma venire ad ascoltare queste presentazioni. Tanta roba. Ci vediamo il 30. Torniamo quindi qui a Tabula Rasa, è giovedì 23 giugno, ringraziamo Norman Gobetti, Marco Taddei, Simone Angelini, Claudia Tarolo, Sara De Simone, la banda di Bande Femme e ringraziamo tutti e tutte voi per averci ascoltato, ci risentiamo giovedì prossimo per una nuova puntata di Tabula Rasa sempre su Radio Onda Rossa che vi invitiamo a sostenere attraverso radioabbonamenti, a frequentare le nostre feste, insomma in qualsiasi modo lo potete fare purché lo facciate. Vi ringraziamo tutte e tutti, vi auguriamo buonanotte e ci sentiamo giovedì prossimo qui su Radio Onda Rossa con Tabula Rasa.